Radio 24 Reportage. L'uomo che parla alla montagna, di Cristina Carpinelli. Io vidi questo versante generare una precipitazione di masse di materiali e di centinaia di alberi alti più di 20 metri che venivano inghiottiti da questo piccolo torrente che si chiamava Pola. Questo che avete sentito è Michele Presbitero, un geologo, e quella che vi raccontiamo è la storia della frana della Val Pola in Valtellina nell'87 e di come un uomo solo ha salvato la vita a centinaia di valtellinesi senza alcun potere istituzionale per farlo. Mettemmo proprio di fronte, sulla zona di San Bartolomeo, che poi fu risparmiata dal franamento, degli osservatori con una semplicità di rilevamento assolutamente quasi infantile, cioè un foglio di carta dove era segnato un centro, un sinistro e una destra, e bisognava che loro calcolassero dove cadevano queste rocce, questi pezzi rocciosi, e il tempo che intercorreva tra uno e l'altro. Così mi accorsi che questi franamenti continuavano in questi pinnacoli a valle e si facevano sempre più frequenti, si passava da uno ogni, non so, 2 o 3 ore fino ad arrivare a uno ogni 10 minuti, ogni 15 minuti. Questo era un chiaro segno che l'instabilità, lo scivolamento stava crescendo. Un giorno chiamai dei colleghi geologi di Coptai dalle altre province per fargli un'esplorazione sia sul versante destro che sinistro. Pochi giorni, 3 giorni prima, uno di questi colleghi osservò una frattura nel versante, una nuova frattura lunga 1 chilometro, che era beante verso valle e in compressione verso monte. Pochi giorni prima della frana, Presbitero aveva cercato di far sgomberare l'intera valle. In quel momento cosa dovevo fare? Certo, avevo tutti contro, l'ANAS, alcuni importanti personaggi che è inutile qui citare, i quali desideravano soprattutto togliere l'impedimento della comunicazione che c'era tra bassa e alta valle. C'erano anche interessi economici, ma lei immagini che a monte c'era lo stabilimento della Levissima. Lo stabilimento della Levissima aveva bisogno di consegnare, non poteva fare il giro della Svizzera per andare a portare dal suo stabilimento tutte le sue produzioni. E allora io non potevo che usare una decisione tranchant. Non riuscivo a convincere, se non la sera prima, la sera prima della frana, in una concitata riunione in cui era presente anche l'allora ministra Zamberletti, direttore generale dell'ANAS, che alla fine mi credette. Ma allora tu ci credi davvero? Ma lei cosa disse in quella riunione? Io in quella riunione continuai a ribadire ciò che avevo già deciso. Sì, che lì non doveva starci sotto nessuno, a prescindere dal numero, non neanche una persona. E così fecero, solo che forse non riuscirono ad avvisare tutti gli addetti ai lavori, così che 7 operai stranamente riuscirono a passare il posto di blocco dei carabinieri. La tragedia avvenne proprio quando questi erano di sotto. Ieri infatti stiamo parlando con un alpinista, ha detto che giù nel fiume si vede un corpo di una salma, che si vedono le gambe uscire dall'acqua, e un altro che si trova gettato tra il bosco lì. La frana venne giù sabato pomeriggio, 18 luglio 1987, con un crescendo spaventoso. La gente venne fatta allontanare di corsa, di notte, grazie anche alle pressioni fatte da Presbitero. Dove c'è bloccato la strada? Sì. Lì sono lì così, no, tutta la gente. E lì ci sono anche tre pune con più 150 con più ragazzi. Bambini? Ragazzi, non so, poi ci sono bambini che a 40 giorni, che 3 mesi, che 5 mesi, che 10 mesi. E stanotte come l'avete passato? In un cascinale, senza niente, né mangiare, né niente, né coperte, né niente. Sono solo io la notte che ho passato, la macchina lì in basso che la portava via, pazienza, amen. È brutto, eh. giorno, no? Siamo andati via prima, siamo andati via verso le 6:30 no, di domenica, di sabato sera. Perché l'acqua scendeva forte? Sì, se, no, no, non era ancora molto forte, ma sono venuti a farci andare via. E lì non abbiamo potuto andare via con la macchina perché non mi partiva. E avevo la ditta dentro lì, ho messo dietro quella macchina dietro e siamo andati via con un'altra macchina, ciao. Michele Presbitero, che aveva fatto evacuare tutta la gente che stava ai piedi della frana, salvando centinaia di vite, finì per essere imputato in un processo. Quando si staccò questa enorme frana, che noi geologi chiamiamo frana storica, furono superarono i 32-33 milioni di metri cubi, e che con i vuoti, perché quando un versante frana genera anche, occupa spazio, anche non è che si incastrano come un mosaico, cioè i vuoti creano anch'essi un volume, e occuparono tutti insieme circa 44 milioni di metri cubi. Dunque la valle salì di 100 metri d'altezza. Questo fenomeno così grande generò altri morti. In quella frazione di Aquilone che io non avevo evacuato, ma in fin dei conti con tutte queste pressioni io immaginavo quello che potevo immaginare, ma a 2,5 chilometri a monte io pensavo più a valle, infatti fece, insomma, io proprio non ci pensai, anche per do un po' la colpa anche questo tipo di pressione in cui tutti volevano sapere dove cadeva sta frana. Questo materiale non si limitò a far risalire la valle di questo materiale, dunque ricadde anche la parte già franata un'altra volta verso il fondovalle, trovando quel lago di fango che si era formato già dall'impedimento del fiume Adda, era stato sbarrato da questi detriti della Valpola. Il generare quest'onda di fango verso monte e tagliò come una rasoiata la frazione di Aquilone, che ripeto era più di 2 chilometri a monte, uccidendo 21 persone, tra cui dei bambini. E questo, insomma, mi commosse molto, perché la gente cominciava a dire: beh, vabbè, se allora questo ha previsto questa roba, si è preso lui la responsabilità. Notare che io lì non avevo una funzione, datomi dalla, io ero dirigente del servizio geologico della regione, ma non avevo compiti per ordinare l'evacuazione. Questi devono essere delle istituzioni, certo, vere e proprie. Dunque questa assunzione di responsabilità diretta mi mise subito con la critica, che diceva: come mai questa persona ha fatto evacuare tutti e qui non ha pensato a questa frazione di Aquilone dove sono morte queste persone. La conseguenza più triste, oltre a, diciamo, vabbè, la morte dei bambini, quella, io ero papà allora di una bambina, sono ancora di 8 anni però allora, adesso ne ha 30, e mi commosse molto, perché anche lì nelle precedenti esperienze di Valtellina, come la frana di Tresenda dove morirono anche lì dei bambini, mi colpivano molto nel profondo, insomma, perché la vita di un bambino deve succedere di tutto, ma i bambini non devono soffrire. Questo è il mio punto di vista, ma ripeto che la cosa più triste fu che il 1° agosto mi chiamò il procuratore di Sondrio e mi fece un interrogatorio. Io gli raccontai come andarono, come sto dicendolo a lei, sono cose che timbrano la tua vita, di cui io mi ricordo anche a distanza di tempo, e gli dissi quello che avevo fatto. Il procuratore mi disse: ma come? E lei non ha evacuato l'Aquilone, sono morte 21 persone, più 7, beh, vabbè, io dico: guardi, io non so. E lui disse: beh, vabbè, fermiamo l'interrogatorio, si prenda un avvocato difensore, io la imputo di omicidio colposo plurimo. E mi diedero una comunicazione giudiziaria, si chiamava così allora, per omicidio colposo plurimo. Io presi un avvocato, cominciavo l'istruttoria e io intanto a casa ricevevo le partecipazioni di costituzione di parte civile da parte dei parenti di tutte le vittime. Dunque io ero proprio... E allora alla fine come si concluse la faccenda? Si concluse con estraneo ai fatti, una cosa ridicola, perché non mi sono mai sentito estraneo a questo fatto, però i periti del tribunale dissero che non capivano come io con così pochi elementi avessi potuto prendere una decisione così importante, erano tutti tecnici, professori universitari. Questa che vi abbiamo raccontato è una storia gigantesca, partita in silenzio e per anni rimasta senza voce. È la storia di un uomo, Michele Presbitero, geologo, che ha saputo ascoltare la montagna. A volte io sono proprio quello che contraddice se stesso, perché io ho semplificato, ma ho semplificato in termini proprio veramente di buona fede e comunque di attenzione per evitare un pericolo, ma non si può semplificare troppo. La natura ha troppe componenti e troppe variabili per poter essere scelta una sola. Devi avere coraggio e nello stesso tempo però devi essere sicuro di quello che dici, e quella deve essere determinante.